ottenendo così un pareggio con 4 voti ciascuno tra Pilati e Piccoli Nardelli, cioè due candidati. Insomma, tutto rinviato e si voterà oggi sul nuovo consiglio di amministrazione. Voglio chiudere con che cosa? Beh, ancora un minuto. Sì, per dire, ma due notizie. La prima è che Placanica, ricordate Mario Placanica, ex carabiniere prosciolto per la morte di Carlo Giuliani durante il G8, è stato rinviato a giudizio per avere una brutta storia. Ieri pomeriggio l'accusa è violenza sessuale ai danni della figlia minorenne della sua ex convivente. La storia la trovate su Il Secolo XIX a pagina 9. E poi io ho twittato così in maniera un po' simpatica il mio account @AlinoMilan. Per il secondo giorno sembra la notizia più interessante dei giornali, la vicenda telenovela Balotelli, Fico, Bebè in arrivo. Balotelli non si fida, altro che la Fico gli ha detto è tuo figlio e lui era contentissimo. Balotelli che ieri ha detto parlerò una volta oggi e mai più di questa storia. La mia relazione con lei è finita, sono rimasto deluso, l'ho scoperto da altri che lei è incinta e ora voglio sapere se è mio figlio prima di assumermi evidentemente l'eventuale responsabilità. Se papà non si fida è boom per il test della tranquillità, così pagina 22 della Stampa mette altri casi, Diego Armando Maradona, Justin Bieber, Alberto di Monaco. E anche sul giornale Balotelli all'attacco, voglio sapere se sono io il padre. Il rompipallone di Gene Gnocchi, la Fico, prima della partita con la Germania ho detto a Mario che ero incinta. Prima della Spagna gli ho detto che non era il suo. Voglio salutare il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, ieri lei ha visto Piaccetta o bisturi volare a Palazzo Chigi e dintorni? Ma guardi, la riunione è stata veramente tesa e deludente dal nostro punto di vista, perché il governo non ha fornito numeri, ha detto solo un numero, deve recuperare 4,2 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA, intento lodevolissimo che noi condividiamo, come condividiamo una spending review che sia impostata all'eliminazione degli sprechi, delle diseconomie. Però abbiamo capito che in realtà il governo si prepara a tagliare il Fondo Sanitario Nazionale e il Fondo per i Trasporti. Questo significa che non taglia gli sprechi, ma taglia i servizi ai cittadini. È duro dirla così, ma al Presidente Monti io l'ho spiegato in questi termini. Se riduce il Fondo Sanitario Nazionale vuol dire che le regioni, anche quelle in pareggio, che sappiamo che sono pochissime, dovranno tagliare i servizi ai cittadini, questo francamente ci sembra inaccettabile. Però si lamenta lei e altri presidenti di regione, anche oggi Luca Zaia, si lamentano i sindacati, si lamentano tutti, ma il metodo del tirare a campare che dice Monti qualcosa bisogna fare, lei cosa proporrebbe di tagliare allora? Io propongo da tempo una soluzione drastica che sarebbe anche esemplare di fronte ai cittadini, e cioè che lo Stato metta in vendita i suoi patrimoni, sono patrimoni consistentissimi, soltanto il patrimonio immobiliare valutato in 500 miliardi di euro, sono operazioni complesse ma che in alcuni mesi si fanno, permetterebbero di abbattere il debito di oltre un quarto, quindi di abbattere gli interessi che paghiamo sul debito residuo e di abbattere le tasse o di evitare l'introduzione dell'IVA e di fare tante altre belle cose. Dopodiché una spending review seria, l'ho detto ieri e lo ripeto oggi, sono interessatissimo a farla, andiamo a ridurre dipendenti e dirigenti, ho detto a Monti guarda che in Regione Lombardia abbiamo già fatto, avevamo 660 dirigenti, oggi ne abbiamo 220, avevamo 5.000 dipendenti, oggi ne abbiamo 3.000, cioè andiamo a tagliare veramente dove c'è un eccesso di spesa o una spesa improduttiva. Questa è la vera spending review, ci vuole qualche giorno in più per esaminarla. Io ho detto ieri Monti siamo qui, cominciamo a lavorare subito, la riunione è stata fissata per stamattina alle 9, poi è stata spostata per stasera alle 18, non vorrei, ripeto, che i tagli fossero fatti senza una discussione insieme e senza l'individuazione insieme della spesa improduttiva che è quella che deve essere tagliata. Insomma, lei vede un'accetta e anche un po' grezza, un po' rozza, fatta male, ecco. Attenzione, un passo avanti è stato fatto dal lavoro del professor Bondi che difatti dice andiamo a comparare i dati, a vedere le medie, chi è sopra media viene tagliato, chi è in media viene lasciato tale quale, addirittura chi è sotto media viene lodato come è giusto che sia, ma appunto esaminiamo questi dati. Se però Questo si traduce in un taglio, come al solito, lineare, che va a colpire i virtuosi e i viziosi. Questo significa, da una parte, che pagano sempre gli stessi, cioè i virtuosi che già hanno fatto delle economie e dei risparmi, e non si spingono mai i viziosi ad una drastica cura dimagrante. Senta, da ieri abbiamo scoperto, Presidente, che il Presidente della provincia di Milano, Podestà, è indagato, è stato richiesto rinvio a giudizio per lui per avere falsificato delle firme nel listino che ha portato lei a vincere le elezioni. Lei dubita che questo possa, o teme che questo possa farla invalidare addirittura le elezioni? Ma guardi, questa è una inchiesta che viene da lontano, che deve avere i suoi tempi. È stato chiesto un rinvio a giudizio dell'allora coordinatore regionale del Popolo delle Libertà, con l'accusa di aver favorito o stimolato questa vicenda. Io ho sempre avuto dal partito, a cui ho chiesto evidentemente che cosa fosse successo, le garanzie che tutto sia stato regolare. Certo, vediamo come le cose vanno avanti. Ricordiamo però anche che le elezioni sono l'espressione del voto popolare. Io ho vinto col 57% dei voti, distanziando di 24 punti il mio competitore. Questo sì, se però fosse il listino presentato in maniera illegale, lei sa che invaliderebbe la sua elezione legittima, cioè la sua vittoria c'è stata, però il listino potrebbe essere stato presentato in maniera irregolare. E di fatto questo è quello che la magistratura deve appurare, e c'è stata questa richiesta di rinvio a giudizio. Vedremo se sarà accolta e poi vedremo eventualmente come andrà il processo. Perché lei ieri ha fatto una sorta di, come lo possiamo definire, ricatto politico? Cioè, se la Lega fa cadere la Lombardia, cadono anche Veneto e Piemonte retti dalla Lega. Cos'è un ricatto? No, non è un ricatto e non è un controricatto. Ho voluto mettere in chiaro le cose, perché le interpretazioni del giorno prima andavano in tutt'altra direzione. Si dice: ma in Lombardia votiamo nel 2013, vediamo quando farlo. Io ho semplicemente ricordato che i governi di Piemonte, Veneto e Lombardia nascono da un identico patto politico, quello sottoscritto a Popolo e Libertà e Lega Nord nel 2010, quando decidemmo due governatori leghisti in Veneto e Piemonte e un governatore PD e Lini in Lombardia. Questo è il patto che dura per 5 anni, quindi è chiaro che noi andiamo avanti a governare i 3 anni residui in Veneto, in Piemonte e in Lombardia, cercando di migliorare sempre più la nostra azione di governo. Ma è evidente che se qualcuno pensasse di mettere in discussione il governo di una regione, poiché il patto politico è lo stesso, rischiano di cadere anche le altre due. Quindi ricatto politico, ma ci sta. No, guardi, con la Lega siamo d'accordo, andiamo esattamente in questa direzione. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche prima del congresso con Maroni, poi dopo mi sono incontrato con gli altri. È stato più che altro una chiarezza di fronte all'opinione pubblica, perché sa, se circolano le voci che un governo della Lombardia potrebbe cadere tra 6 mesi, tra un anno e mezzo, si crea un clima di incertezza, mentre io ho voluto trasmettere all'opinione pubblica la certezza che noi governeremo 3 anni, la gente può rivolgersi a noi, le imprese possono rivolgersi a noi, anche io abbiamo varato provvedimenti importanti come questo decreto salva mutui per facilitare chi deve pagare il mutuo ed è in difficoltà economica, e tante altre iniziative. Abbiamo davanti ancora 3 anni di lavoro, sì. Vogliamo dare questa stabilità anche all'opinione pubblica, che sappia che può rivolgersi a noi come ha fatto fino adesso. Ma allora, quando il sindaco di Verona Tosi, per esempio, dice ieri su Repubblica si dimetta, cioè si faccia da parte, Formigoni, lasci. Posso, l'ha fatta fuori dal vaso, come diciamo con l'espressione dialettale. Che c'entra il sindaco di Verona? Si rivolga al governatore del Veneto se ha qualcosa da dire. E anche Salvini, allora per venire in Lombardia è un po' anche Salvini per venire alla Lombardia è critico. Salvini ci siamo incontrati martedì, ha detto con chiarezza che andremo avanti. Noi vogliamo un'azione della giunta sempre più capace di dare risultati. Per questo la famosa idea del tagliando. Io ho detto: tagliando ce lo facciamo reciprocamente. Io tagliando la giunta lo faccio una volta alla settimana quando la convoco, una volta alla settimana facciamo il tagliando ai nostri gruppi consigliari perché varino leggi opportune, perché siano attenti a tutto ciò che capita nel territorio. Ecco, è una competizione nella virtù per migliorare sempre più la nostra azione di governo. Ma Presidente, perché lei non vuole più parlare della vicenda che il Corriere ha sparato in prima pagina dando lei come indagato? Lei ha detto: io non ho mai ricevuto nessun avviso di garanzia. Perché non ne vuole più parlare? Perché non è vera, appunto. Però lei sa meglio di me che io, Alessandro Milan, potrei essere indagato in questo momento e per tot mesi, credo 6 mesi, la procura potrebbe anche non comunicarmelo. Questo, certamente, questo lo sappiamo, però cosa succede? Che la procura non lo comunica lei e lo comunica al Corriere della Sera? Questo sarebbe una scorrettezza clamorosa. Allora il Corriere dica: o questa notizia se l'è inventata, o ha delle fonti, o questa notizia l'ha saputa. Allora dica da chi l'ha saputa. Beh, le fonti sono sacre, però. È stato scritto, no, ma comunque voglio dire, siccome ho fatto i miei passi, ho assunto le mie informazioni, le posso ribadire con grande serenità che né ho ricevuto un avviso di garanzia né sono indagato. Ma ha querelato, cioè, cosa ha fatto? Ha querelato il Corriere della Sera? Sì, perché addirittura accusato che sarei sotto indagine per un finanziamento illecito che non ho mai ricevuto. Difatti due giorni dopo ha detto: no, il finanziamento non l'ha ricevuto Formigoni ma l'ha ricevuto il PDL. Allora innanzitutto le responsabilità sono personali, quindi dovrà dire con chiarezza: ci siamo sbagliati, Formigoni non è indagato. Ma poi anche il PDL non ha ricevuto questo finanziamento illecito, quindi fa parte di tutto quel gran polverone che da fango che da mesi stanno scagliando contro di me e contro il governo di Regione Lombardia, e che è insussistente, inconsistente, che non ha nessun fondamento di verità. Mi faccio fare l'ultima domanda, che in questo caso non è un'invasione della sua sfera privata: dove va in vacanza quest'anno? Perché sa che non l'ho ancora deciso. Non l'ho ancora deciso, di solito lo decido sempre alla fine, ma le devo dire una cosa. Ma lei fa vacanze da sogno? Quando legge vacanze da sogno si arrabbia? No. Ma no. Beh, almeno. Chiariamo un istante, io ho sempre fatto vacanze in Italia, 2 settimane d'estate e 1 d'inverno, salvo 2 occasioni quando sono andato ai Caraibi pagandomeli di tasca mia. Una vacanza è stata una cosa fantastica, indubbiamente, però ho speso poco più di 5.000 euro la prima volta, per più di 5.000 euro la seconda volta. Non le rifarei, soprattutto in questi anni, che sono anni in cui bisogna dare assolutamente segno di sobrietà. Per quest'anno io sarò la prima settimana di agosto in Corea, che non è un bellissimo paese, però là si conclude l'Expo di mandato, e devo partecipare ai dialoghi, ai colloqui, oltre che alle cerimonie finali col presidente dell'ONU, con il segretario generale dell'ONU, in quei paesi. Quindi insomma passerò qualche giorno di tranquillità lì nei pressi. Non ho ancora ben visto la Corea che cosa offre turisticamente, credo pochissimo, ma quest'anno va così. Quest'anno Corea, sì, effettivamente. Corea del Sud almeno. Corea del Sud, sì. Yeosu. No, va bene, la ringrazio, buona giornata. Buona giornata al presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Che è stato con noi. Dopo la pubblicità del meteo vi spiegheremo, tramite il racconto di una persona, come si possono razionalizzare le spese nel settore della giustizia. Lui lo ha fatto in Italia e come è andata a finire la sua storia. Eccoci qua dopo il governatore della Lombardia Formigoni alle 8:36 minuti. Vogliamo parlare di come si può razionalizzare o tagliare, uso questa parola, comunque ridurre gli sprechi nel settore giustizia, uno dei settori più delicati. Lo facciamo con una persona che non vogliamo ammantare assolutamente il titolo di eroe o di mandrache o di chissà che, ma una persona che quando era capo della procura di Bolzano queste cose le ha fatte, ha ottenuto anche dei risultati concreti, tangibili. Si tratta di Cuno Tarfusser, che saluto. Dottor Tarfusser, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, io dico 3 risultati lei ha ottenuto, mi sembra di capire. Intanto, per essere concreti: ridurre le spese della procura del 70%, arrivare a un livello di arretrati, cioè i fascicoli aperti a livello fisiologico, e erogare in tempi reali i servizi amministrativi. Allora, intanto, è davvero un'impresa impossibile? Mi sembra di capire che lei, nella chiacchierata che abbiamo fatto ieri, mi ha detto questa frase che mi è piaciuta: il pesce puzza dalla testa. Che vuol dire? Vuol dire che è un vecchio detto, cioè che è comunque il capo che deve trainare e che deve essere l'incentivatore di tutto questo, perché è il capo che ha il potere di incidere, di trascinare i suoi, con un po' di leadership credo che si possa coinvolgere, tant'è che non mi piace quando lei dice che l'ho ottenuto io questo risultato l'abbiamo ottenuto in tutti insieme nell'ambito dell'ufficio, come gruppo, come squadra, e sappiamo anche da recenti esperienze sportive che è il gioco di squadra che poi alla fine porta al risultato, non il singolo. Però il capo chi è in questo caso? Ma il capo è in sede centrale, certamente il ministro, che ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione ha un dovere ben preciso. Credo che l'articolo 110 della Costituzione dica, cioè obblighi il ministro a organizzare alla responsabilità per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. E voglio solo ricordare che il ministro della giustizia è l'unico ministro citato espressamente dalla Costituzione, quindi ha un onere molto forte, che è quello appunto della responsabilità organizzativa. E ovviamente questa responsabilità in sede periferica e quindi nell'ambito dei vari uffici ce l'hanno i capi degli uffici giudiziari, cioè il capo dell'ufficio giudiziario è un lavoro, non è solo un passatempo o qualcosa di rappresentanza, quindi è un lavoro durissimo e quindi tra il ministro in sede centrale e i capi degli uffici in sede periferica è a loro che compete l'organizzazione. Si parla per esempio di riduzione appunto del 70%, vediamo alcuni comparti che la gente, l'opinione pubblica identifica anche come sprechi, per esempio sulle intercettazioni, o meglio le spese sulle intercettazioni. Lei quando era a Bolzano che cosa ha fatto? Perché ieri mi ha raccontato una cosa che io non sapevo nella mia ignoranza sul tema intercettazione, cioè che noi paghiamo che cosa? Una quota? Intanto quello che abbiamo fatto uso sempre il plurale per i motivi anzidetti, quello che abbiamo fatto è che insieme ai miei collaboratori abbiamo cercato di ripensare a tutto il sistema, ormai lo stanno facendo anche altri uffici giudiziari, ripensare e anche ricontrattare dei contratti che erano obsoleti e evidentemente andavano tutto a vantaggio non della pubblica amministrazione ma del privato che forniva il servizio, quindi cercare di entrare in un'ottica di libero mercato con questi, cambiare l'ottica anche da parte nostra, cioè di capire che la giustizia ha un costo e questo costo va ridotto e che la giustizia è un servizio e quindi deve anche, sì, anche a noi incombe l'onere di agire e di svolgere questo servizio in termini economicamente sopportabili per la pubblica amministrazione. Quindi abbiamo ricontrattato sostanzialmente, rifatto tutti i contratti, tutti i contratti con i singoli fornitori privati. Ma quello che trovo abbastanza folle, questo secondo me dovrebbe essere compito del Ministero a livello centrale di incidere su questo, e mi sono ancora informato ieri qui dai miei vecchi collaboratori che mi confermano questo dato, che che gli operatori telefonici, noi paghiamo per ogni giorno di telefono sotto controllo, sì, 2,05 euro più IVA al gestore telefonico, che per questi balzello di 2,05 euro, che sono un'enormità se poi pensiamo li moltiplichiamo per i giorni, per i numeri di telefoni sotto controllo, cioè li paghiamo così, anche se queste persone, ma senza che il gestore telefonico faccia alcunché per meritarsi questo, perché solo fatto è un balzello, cioè 2,05 euro più IVA paghiamo noi al gestore telefonico per il fatto che una procura intercetti delle telefonate, poi le telefonate vengono pagate da chi telefona ovviamente al gestore telefonico, ecco. Certo, ma questo sì, però noi al gestore telefonico gli regaliamo questi 2,05 euro per ogni utenza che è intercettata, per ogni giorno. Questo il ministero dovrebbe ricontrattare, per esempio, questa cosa. Certo, un'altra questione è che se noi facciamo delle indagini tecniche, ci serve una linea ADSL, noi veniamo trattati come il privato cittadino, quindi dobbiamo fare un contratto di 24 mesi, anche se magari questa linea ADSL ci dura solo o ci serve solo magari per un periodo limitato, due settimane, un mese, due mesi, alla fine interrompiamo l'attività investigativa e non ci serve più la linea ADSL, ma paghiamo tutti e 24 mesi, qualsiasi privato cittadino. Ma è incredibile, ma uno dei grandi temi è la digitalizzazione, ci stiamo arrivando ma con grande lentezza, per esempio perché non è possibile avere un certificato penale invece di recarsi in tribunale, che ne so, in altri modi alternativi? Ma questo potrebbe essere una delle battaglie dei sindaci, piuttosto che andare a fare delle battaglie di retroguardia per il mantenimento dei tribunali nei piccoli centri. Potrebbe essere quello di fare pressione sul centro affinché, cosa che noi abbiamo anche provato a fare, ma che era difficile per tutta una serie di questioni normative che si frapponevano alla realizzazione di questo, di decentralizzare dall'ufficio giudiziario ai comuni, per esempio, tutta una serie di servizi. Non capisco perché non si possa andare in comune da dove sì. poi il cittadino si collega con l'ufficio giudiziario, un comune periferico, per chiedere il certificato penale . O il carico pendente o qualsiasi altra certificazione. Cioè utilizzare i comuni così, per esempio, potrebbe essere più burocrazia. Oppure anche uno dei punti sui quali lei, forse per il quale non è molto, molto amato dalla categoria, è quello di puntare sul merito. Glielo faccio come provocazione. So che un suo vecchio pallino è quello, ne ha parlato in qualche intervista, di creare delle commissioni valutative per il lavoro dei magistrati, che si è ammattito lei, dottor Tarfus, si vuole... Ma guardi, il problema è, non capisco, perché tutti siamo valutati, tutti sono valutati, professori universitari, manager, tutti vengono valutati, gli unici che non sono valutati sono i dirigenti degli uffici giudiziari. Cioè io credo che sia sacrosanto che anche noi veniamo valutati, che ci sia un criterio di valutazione, ma non tanto della bontà della sentenza, perché quella c'è evidentemente, ma della bontà dell'amministrazione, del management, che uno, io parlo adesso della valutazione dei dirigenti degli uffici giudiziari, direttivi e semidirettivi. Voglio dire, alla fine, siccome ormai anche noi abbiamo dei tempi limitati in cui esercitiamo la dirigenza di un ufficio giudiziario, no? 4 più 4 anni, ci sarà qualcuno che alla fine, io parlo anche, il dirigente viene valutato, ma anche il capo dell'ufficio dovrà pure essere valutato per vedere se si merita di essere confermato piuttosto se... È grande tema, quello della valutazione della pubblica amministrazione. In genere vengono fatte valutazioni a pioggia, cioè tutti avanti... E tutti premiati. È una valutazione pro forma, normalmente è una valutazione abbastanza pro forma, ma io dico una valutazione di come uno usa le risorse che gli vengono messe a disposizione, della capacità di gestire sotto profilo amministrativo un'organizzazione, perché poi un ufficio giudiziario è un'organizzazione e il capo dell'ufficio ha il dovere di farla funzionare l'organizzazione. Tra l'altro, evidentemente il capo dal ministero devono dargli risorse e mezzi sufficienti per poterlo fare. Tra l'altro lei ha citato la questione dei tribunali da difendere, di battaglie magari definite anche di retroguardia di sindaci. Un sindaco la sta ascoltando, è il sindaco di Melfi, Livio Valvano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, sindaco. Buongiorno ai radioascoltatori. Io dopo le informazioni sul traffico sono da lei, perché lei ieri era, credo, a Roma, sì, a protestare proprio contro l'ipotesi di chiusura o di accorpamento del tribunale di Melfi. Eccoci qua, sindaco Valvano, perché lei era a Roma? È una battaglia di retroguardia quella di difendere, per carità, non ci dica che il tribunale di Melfi è importante, io ci voglio credere sulla fiducia, ma il concetto di un sindaco, come tanti sindaci che difendono l'importanza di avere un tribunale, non è un voler difendere una bandiera, un privilegio, un qualcosa in un'Italia in cui, come dice Monti, non possiamo più tirare a campare? Guardi, nel caso del Tribunale di Melfi, noi siamo andati ieri a Roma per poter capire che cosa sta accadendo. Io direi che non è assolutamente una battaglia di retroguardia, è una situazione molto particolare. Sono d'accordo con quanto diceva prima, si corre il rischio effettivamente che tutti i sindaci, gli amministratori, gli esponenti istituzionali dell'intero paese si in qualche modo reagiscano per evitare la soppressione del tribunale vicino al proprio campanile. Non è questo il punto? Noi siamo andati dal sottosegretario per capire ciò che stava accadendo, perché nel nostro caso noi abbiamo appreso dalla relazione del gruppo tecnico ministeriale che il tribunale, di cui sicuramente c'è una grande importanza per una serie di ragioni, ma sì, a parte lo diciamo noi, lo dice il prefetto della provincia. Nel nostro caso il tribunale era stato dichiarato letteralmente intangibile dal gruppo tecnico ministeriale, una relazione consegnata nel mese di aprile. Negli ultimi giorni è cambiata la situazione. Cambiata, insomma. Però sa, le cose cambiano nella vita, sindaco. No, non crede. Assolutamente, le cose cambiano e nessuno può fermare la necessità di cambiamento, di anche alleggerire una pubblica amministrazione che in questo momento è percepita essere come uno dei grandi problemi del debito pubblico italiano. Però quando si chiede di fare dei sacrifici, lo si deve chiedere applicando criteri trasparenti, sì, innanzitutto. Per esempio, appunto, so che lei contesta il fatto che vogliono chiudere Melfi tra le ipotesi e vogliono difendere il tribunale di Lago Negro per, esatto, per presunti appoggi politici più forti dei suoi, evidentemente, o di gente di Melfi, è così? Guardi, assolutamente, c'è una situazione molto paradossale. Lago Negro, che è il tribunale più piccolo, dovrebbe, secondo le indiscrezioni che poi ieri abbiamo appreso, essere molto di più di indiscrezioni, ma è la bozza di decreto che sarà in discussione al prossimo Consiglio dei Ministri. Lago Negro, che è la sede più piccola, accorperà un tribunale più grande di un'altra regione, della Campania, provincia di Salerno, il tribunale di Sala Consilina, che è un tribunale più grande per numero di magistrati, per cause pendenti, popolazione. Perché? Chi è che c'è di Lago Negro in Parlamento, immagino che è forte? Sicuramente, diciamo, lì nell'area sud della Basilicata ci sono nel territorio esponenti parlamentari che l'area nord della Basilicata non ha. Nel collegio del Tribunale di Melfi non c'è, questo è un dato oggettivo, poi naturalmente potrebbe... Non c'è qualcuno che porta avanti i vostri interessi. Non so, dottor Tarfuser, come le pare, come discorso? Cioè, no, perché no, sorride? Trovo abbastanza desolante questo modo provincialismo. Ha ragione Prandelli, siamo un paese un po' vecchio in cui l'interesse particolare prevale sull'interesse generale. Io penso che un pubblico amministratore, invece di sostenere o strumentalizzare o farsi strumentalizzare anche dai propri cittadini, una battaglia credo che antistorica, di retroguardia e soprattutto antieconomica in questo momento, sarebbe quello di discutere con i cittadini per convincerli del senso e della logicità. Però il sindaco dice appunto non c'è alcun senso, perché magari chi ha un appoggio politico è così, poi sì, che il sistema può... italiano, cioè chi ha l'appoggio politico come Lago Negro, seguo il ragionamento del sindaco, si salva e noi invece no. Ma il problema dovrebbe essere che queste, cioè non dovrebbe essere uscire nessuna notizia, alla fine esce così senza che ci sia stata interferenza di nessuno, deve essere una decisione tecnica, punto e basta, cioè non una decisione politica e questo, anche questo fa parte del provincialismo nostro, no? Per cui interviene l'uno, per cui in 30 anni non si è mai fatto nulla di questo genere. Tra l'altro lei, dottor Tarfuser, no, infatti tutte queste proposte, cioè il modello Tarfuser, modello della squadra Tarfuser, diciamo così, a Bolzano, è stato studiato in Italia ed lei è stato chiamato da ex ministri a parlare al CSM, ha proposto questa best practice, credo, no, di Bolzano, sì, da adottare un po'. Certo, tutto questo avviene fino al momento del governo ancora precedente a questo, poi ovviamente sono stato mandato all'AIA e tutto si è in qualche modo mi ha bruciato il finale, nel senso, tutto questo avviene, il procuratore capo di Bolzano ex Cuno Tarfuser oggi è vicepresidente, credo, vicepresidente della Corte Penale Internazionale all'AIA in Olanda, e quindi un incarico importante, ma l'ha detto lei, sono stato in qualche modo tra virgolette esiliato, cioè avevamo una persona e abbiamo una persona che può aiutarci concretamente a dire si fa così nel settore giustizia, che facciamo? L'abbiamo spedita in Olanda? Ma allora io non dico si fa così, io non mi permetto, non sono così. Beh, però lei l'ha fatto, cioè non è certo, che... Io dico qualche idea ce l'ho e l'ho anche cercato di metterla in pratica. Il problema è che adesso sono all'AIA, perché qui sono stato chiesto di venire e quindi sono all'AIA, però seguo evidentemente anche da qua quello che avviene in Italia e ovviamente ogni tanto qualche mi rode un po' il fegato di non poter incidere, però non si può fare tutto nella vita, mi è stato chiesto di venire qua, io sono un civil servant e adesso servo qui e evidentemente servo di più qui che in Italia. Ma che effetto le fa però? Ha già detto, ha un po' ragione che siamo un paese vecchio, cioè qualche ricetta ce l'aveva, qualche idea ce l'aveva, e che fine hanno fatto le sue considerazioni, quelle, la sua best practice di ma, Bolzano? Guardi, ci sono tutta una serie di regioni e di uffici giudiziari in cui si sta lavorando su questo progetto, ovviamente fatte i debiti aggiustamenti in relazione al territorio in cui viene implementata questa idea. In altre regioni, altri uffici giudiziari sono evidentemente molto più latitanti, ma quello che io ho notato negli ultimi anni, quello che latita profondamente è il Ministero della Giustizia, che è in realtà quello che dovrebbe che ha l'obbligo per Costituzione di organizzare gli uffici giudiziari, e che in realtà non fa quello che io ritengo debba fare, cioè il coordinamento, l'attività di propulsione, perché questa best practice, non l'ha chiamata io così ma l'ha chiamato il Ministero così, questa best practice Procura Bolzano venga in qualche modo implementata anche in altri uffici, sì, cioè non fa l'attività di coordinamento necessaria, di propulsione, torna sempre lì, il pesce puzza dalla testa. Qualcuno mi ha detto, io gli ho detto una volta, ma anche un ascoltatore mi scrive: promoveatur, removeatur, amoveatur. È così per lei, procuratore? No, che l'ha mandata all'AIA per questo? No. Voglio dire questo perché io ovviamente sto bene qua, però mi sento un po' zoppo, devo dire, cioè sto benissimo, sta perché benissimo. Ovviamente la cosa è di grandissimo prestigio anche per l'Italia, credo e spero.